Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 11 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre venerdì, avremo anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia, ma lo dico subito, daremo anche atto, perché è giusto che sia così e sbagliano i colleghi quando non lo mettono abbastanza in evidenza, daremo anche atto delle assoluzioni arrivate da varie inchieste, penso ai Piemonte, ai fondi della regione Piemonte, di cui ci occupiamo anche noi, alla soluzione per Marino e anche ad alcuni proscioglimenti per mafia capitale. Di questo parleremo prima, perché è giusto dire quando invece le indagini vanno in un'altra direzione, poi invece racconteremo di altri sprechi. Parleremo anche, e come sempre avremo come ospite la startup, cioè chi si è rimboccato le maniche in questi anni e ha lanciato un'attività di impresa. L'altro tema, o meglio il tema oggi di attualità economico-finanziaria, si chiama G20 a Washington, perché ieri abbiamo raccontato e dato alcune delle dichiarazioni della direttrice Christine Lagarde, che aveva invitato ieri di nuovo la Germania a mettere in atto azioni concrete per sostenere la crescita economica. Questa mattina c'è stato l'intervento del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, e il quale ha detto che l'economia europea riesce a resistere anche all'incertezza politica, ma si sta parlando anche di Deutsche Bank, sotto traccia, c'è stata la cosiddetta missione del Falco, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che è andato addirittura a Washington con un appello appassionato ieri contro il populismo che sta crescendo anche in Germania, e rispondendo a un dibattito, se ho ben visto, alla CNN, a margine appunto degli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale, se non fosse frustrato nel dover richiamare i partner comunitari. Insomma, la cosa interessante è che Schäuble riconosce che il populismo, come lo chiama lui, o l'approccio di destra demagogico, come è in Germania, sta prendendo piede in Europa, e riconosce un grandissimo ruolo avuto dall'Europa. Con l'integrazione europea abbiamo il controllo della nostra situazione, senza l'integrazione non avremmo mai superato il disastro di Hitler e la gestione legata alla guerra fredda, dunque non lo dimentichiamo, non lo dimenticheremo. È uno Schäuble molto colomba, evidentemente Alternative for Deutschland si fa sentire anche per la CDU, cioè il partito di destra definito appunto demagogo e populista. Beh, insomma, poteva pensarci un po' prima Schäuble, quando trattava la Grecia come se dovesse cacciarla dall'euro da un momento all'altro, quando si è in qualche modo è diventato paladino dell'austerity, o perlomeno è stato raffigurato come il paladino dell'austerity tedesca, del rigore tedesco ad ogni costo, quando insomma l'arroganza che noi raccontavamo nel 2012-2013 non aveva nessuna possibilità, non apriva nessun tipo di dubbio se forse non si sarebbe condotta l'Europa, l'area euro, verso una deriva di protesta che adesso chiamiamo populista, demagogica, quello che volete, ma di protesta per questa gestione dell'Europa. Quindi prendiamo atto, meglio tardi che mai, speriamo che non sia solo una captatio benevolenza, perché in questo momento c'è un problemino in Germania che si chiama Deutsche Bank. Visto che parliamo di banche, andiamo sulla borsa: meno 0,55% Milano, meno 0,70% Francoforte, meno 0,90% Parigi, Londra più 0,50%, il Dow Jones meno 0,20%. Tra i titoli oggi gli andamenti sono molto misti: recupera qualcosa il Monte dei Paschi più 1,20%, UbiBanca più 1,70%, poi ST Microelectronics più 1%, Atlantia più 0,70% come Unipol, mezzo punto di rialzo per Case New Holland Industrial, CNH Industrial. Invece perde il lusso oggi: Ferragamo il 2,50, Moncler l'1,90, Campari l'1,80, Hugues Saint Apporté meno 1,60, poi Mediaset meno 2,24, Snam meno 1,90 anch'essa, Buzzi Unice meno 1,80, Fineco meno 1,70, Enel perde un punto e mezzo percentuale, A2A meno 1,30, euro su dollaro a quota 1,11, ultima cifra, quella per i vostri sms e per WhatsApp, è sempre 349-238-6666, mentre poi c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora andiamo con le notizie in breve. Sì, vedo già molti messaggi, adesso vi arriviamo, un attimo di pazienza anche a Schäuble. Di quello che ha detto Mario Draghi parleremo ampiamente nella seconda ora del programma. Comunque ha detto che la politica monetaria rafforza la ripresa europea, che la posizione delle banche dell'euro è comunque rafforzata, ma la sfida è sulla redditività e l'impatto anche dei tassi bassi, e che l'economia resiste comunque all'incertezza politica. Questo nel giorno in cui dagli Stati Uniti abbiamo avuto un dato sul... i dati sono settimanali, però in questo caso fa tutto il computo sui posti di lavoro creatisi a settembre, 156.000 posti in più, al di sotto delle attese, ci si attendeva 176.000 posti di lavoro, la disoccupazione è salita leggermente dal 4,9 al 5%, ma resta sempre su livelli bassissimi negli Stati Uniti. Altra cosa è poi vedere la qualità dei salari negli Stati Uniti. Comunque, sulle parole di Draghi, proprio relative alla posizione della Banca Centrale Europea e al fatto che l'economia resista all'incertezza politica, soprattutto in Europa, su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il quantitative easing, il programma di immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea attraverso l'acquisto di 80 miliardi al mese di titoli pubblici e di selezionati bond privati, andrà avanti fino alla fine di marzo e oltre se necessario. Ieri lo si è desunto dalle minute dell'ultimo board della BCE, nelle quali non si faceva alcun riferimento a una riduzione degli acquisti di titoli, operazione che va sotto il nome di tapering. Oggi la conferma è arrivata direttamente da Mario Draghi, presidente della BCE, che a Washington ha parlato di politica monetaria e di ripresa economica. Si conferma che per la BCE ancora molto deve essere fatto, sia per recuperare adeguati livelli di inflazione, l'obiettivo resta intorno al 2%, e molto va fatto anche sul versante della crescita, che sta continuando a ritmi moderati, anzi, ha detto Draghi, con uno slancio meno vivace rispetto a quanto si era in precedenza immaginato. Pesano molto le incertezze politiche ed economiche, sia in Europa, a partire dalla Brexit, sia a livello globale, con il rallentamento in atto in molti paesi. Quello che Draghi vuol dire è che i paesi europei non devono perdere ulteriore tempo e, grazie alla politica monetaria accomodante e ai tassi ai livelli minimi, devono accelerare l'attuazione delle riforme strutturali. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, sempre continuando con le notizie in breve, oggi il quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt ipotizza che per il piano di salvataggio per Deutsche Bank si stiano muovendo delle grandi imprese, e sono due notizie. Secondo Handelsblatt c'è allo studio un piano di salvataggio per Deutsche Bank, e la seconda, appunto, che lo scrive nell'articolo di apertura di oggi, che si starebbero muovendo manager di aziende che compongono il DAX, cioè l'indice di Francoforte, e avrebbero discusso nei giorni scorsi un piano di salvataggio per Deutsche Bank, e stanno valutando se sia possibile l'acquisto di azioni dell'istituto nel caso questi avesse bisogno di capitale fresco. Un tale intervento, cioè se intervenissero grandi imprese tedesche, renderebbe più semplice il rafforzamento delle riserve finanziarie di Deutsche Bank e incontrerebbe la benevolenza del governo di Berlino, che sarebbe più che contento di evitare l'accusa di aiuti di Stato. La vicenda della sterlina, alcuni di voi mi chiedono su questo. Allora, non si capisce, sembra che sia stato un errore nell'emissione di un dato da parte di qualche sala operativa, esacerbato poi dalle vendite in automatico che scattano con gli algoritmi. Cosa è successo? Questa mattina la sterlina, che già è molto debole, mai così debole da 31 anni sul dollaro e da 8 anni sull'euro, improvvisamente in due minuti ha perso il 6% del suo valore. Ora, nel mercato valutario è rarissimo che capiti una cosa del genere in due minuti, tant'è che era arrivata a livello più basso dal maggio del 1985. In realtà sembra un errore. Detto questo, anche al G20 sono preoccupati dalla volatilità della sterlina. È preoccupato sempre Wolfgang Schäuble, che ha detto: sì, siamo preoccupati da questo eccesso di volatilità, anche se non ne abbiamo discusso nel G20. E invece continua il botta risposta sulla Brexit, perché da un lato, secondo quanto rivela oggi il quotidiano britannico The Guardian, il governo britannico ha detto no alle consulenze sulla Brexit da parte di maggiori accademici stranieri che lavorano per le università del Regno Unito. Praticamente, in una mail arrivata alla London School of Economics, il governo ha chiesto di non avere consulenze di studiosi specializzati in affari europei che non siano britannici. E Juncker oggi invece, quindi il Presidente dell'Unione Europea Juncker, è intervenuto alla cerimonia a Parigi per il 20° anniversario del Jacques Delors Institute, ha detto: non negozieremo prima che arrivi la lettera di addio del governo britannico all'Unione Europea, ma deve essere chiaro che tutte le regole devono essere rispettate se si vuole accesso al mercato unico, non si può stare con un piede dentro e uno fuori. Allora, i dati economici che arrivano dalla Germania invece sono buoni, la produzione industriale è cresciuta del 2,5% nel mese di agosto, dopo un dato invece negativo dell'1,5% nel dato di luglio. E sempre per quello che riguarda invece i dati economici, faccio notare che Juncker oggi ha rivendicato la bontà del suo piano di investimento, ha detto lo chiamavano piano Juncker, convinti che non avrebbe funzionato. Tra l'altro oggi vedo anche molti messaggi su Caprotti, ne abbiamo parlato ieri, sì, nel testamento viene citato in maniera esplicita il modello del gruppo olandese Ahold, che, lo ricordo, quest'estate è convolato a nozze, ha fatto una fusione con la belga De La Haize per dare via un colosso che è presente in 22 paesi, non in Italia, e ha un fatturato 10 volte superiore a quella di Esselunga. Ed è vero che dice no, non vendere, nel testamento dice non vendete alle Coop, il compratore deve essere straniero. Ma la battaglia, l'ostilità, gli scontri e le accuse che Caprotti nella sua vita ha mosso alle Coop sono, penso, arcinote. Veniamo alle rettifiche. No, vorrei iniziare subito con la nostra classifica dei 5 sprechi della settimana nella pubblica amministrazione, partendo però non da delle rettifiche, da delle notizie che però vanno date, a mio avviso, e lo dico anche appunto ai miei colleghi, con la stessa enfasi con cui diamo l'apertura delle indagini e le inchieste dei PM, altrimenti c'è un'asimmetria totale tra quando un PM indaga e quello che poi è la sentenza definitiva, almeno sul primo grado, dei giudici, e non può funzionare così. E quindi partiamo con la classifica, ma ricordando invece chi proprio tra ieri e oggi è stato assolto da varie accuse. La classifica della settimana. Allora partiamo da quelle più recenti. L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, è stato assolto dall'accusa di peculato, truffa e falso nell'ambito del processo sul caso Scontrini e le consulenze della Onlus Immagine. La procura aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. Marino è stato assolto perché il fatto non costituisce reato in merito alla vicenda della Onlus Immagine e perché il fatto non sussiste per quanto riguarda la contestazione di peculato. Ricordo che oggetto del processo erano 56 cene per circa 13.000 euro pagate con la carta di credito del comune e la predisposizione dei certificati che attestavano compensi destinati a collaboratori fittizi o inesistenti che avrebbe procurato alla Onlus un ingiusto profitto di 6.000 euro. Marino dice: sono felice, me lo aspettavo, sapevo di essere innocente, il conto di certe azioni le paga il paese, soprattutto quando riguardano la capitale d'Italia. Posso dire una prima cosa? Oggi parleremo anche della magistratura. Tutto bene, errare è umano, ma io mi chiedo com'è possibile che venga richiesta una pena dalla procura a 3 anni e 4 mesi e il giudice, il GUP Pierluigi Balestrieri, dice no, il fatto non sussiste per quanto riguarda la contestazione di peculato e non costituisce reato in merito alla vicenda dell'Onlus. Cioè, delle due, adesso, ma è possibile che una procura possa chiedere 3 anni e 4 mesi per un fatto che non sussiste? Ok, dice, è giusto, serve per quello giudizio. Ho capito, ma uno non può, non so, uno resta un po' basito, perché adesso ha ragione anche Marino a dire: ma scusate, mi avete crocefisso per quello, poi ci sono altre cose su questo crocefisso, o meglio accusato, però su quello può parlare di crocifissione. Vado avanti. L'ex presidente della regione Piemonte Roberto Cota è stato assolto nel processo per la rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte. Ne abbiamo parlato anche noi, la causa riguardava l'uso distorto dei fondi destinati ai gruppi politici rappresentati in consiglio regionale. Anche qui la procura aveva chiesto per l'ex governatore una condanna a 2 anni e 4 mesi. Mistero tra la richiesta della procura e il giudizio del magistrato. Hanno condannato sì 10 persone, 10 consiglieri, e 15 li hanno assolti, tra cui appunto l'ex governatore Roberto Cota. Vi ricordate le mutande? Ma non erano solo le mutande verdi, abbiamo raccontato di tutto, di quella vicenda, gente che aveva il dono dell'ubiquità, che pagava con la carta di credito da una parte, poi il casello però risultava essere da un'altra parte. Però le pene inflitte spaziano dai 3 anni e 10 mesi per Michele Giovine, pensionati per Cota, la pena più alta, e 4 mesi con la condizionale per Augusta Montaruli del PDL, per la quale l'accusa di peculato è stata derubricata in un lieve episodio di finanziamento illecito. La regione otterrà dai 2 condannati 20.000 euro, nessun indennizzo invece alla parte civile Codacons, la regione nel corso del processo aveva ricevuto già dagli imputati indennizzi per 2,4 milioni di euro. Anche qui ha ragione Cota a dire: qualcosa non funziona, contro di me attacchi ignobili. Ha ragione in che senso? Nel senso che obiettivamente tu istruisci una vicenda come quella e poi ti rendi conto che non c'è nulla. Allora, dopo il metro e la pubblicità, darò conto anche di quello che è successo su Mafia Capitale, non vi preoccupate chi mi scrive, e poi partiamo con la classifica vera e propria, che pure oggi, diciamo, qualche chicca ce l'ha. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. La classifica della settimana. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la classifica della settimana. Dovevo dare però anche notizia di ieri dell'archiviazione a 116 indagati per quello che riguarda la famosa inchiesta Mafia Capitale. Sono 116 indagati della maxi inchiesta su Mafia Capitale per i quali la Procura di Roma ha chiesto al GIP l'archiviazione. Tra le persone su cui i PM di Piazzale Clodio non hanno trovato elementi per proseguire le indagini figurano politici, imprenditori, professionisti. Alcuni sono al centro di altre inchieste giudiziarie e già condannati. Però Tra quelli per cui si è chiesta l'archiviazione, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e poi la posizione, era accusato di corruzione e turbativa d'asta, la posizione di Vincenzo Piso, parlamentare ex PDL, ora gruppo misto, gli era contestato il finanziamento illecito. Poi il presidente del Consiglio regionale Daniele Leodori, turbativa d'asta, anche questa chiesta l'archiviazione. L'ex consigliere comunale con delega per lo sport nella giunta di Alemanno Alessandro Cocchi, turbativa d'asta, anche qui chiesta l'archiviazione. E l'ex braccio destro di Alemanno Riccardo Mancini, associazione mafiosa, anche qui richiesta l'archiviazione. Nonché il capo della segreteria di Alemanno Antonio Lucarelli, anche per lui sta chiesta l'archiviazione, l'accusa di associazione mafiosa. Ora è facile mettere assieme questa notizia, però voglio dire, uno, la domanda su come fanno le indagini, i PM se la deve anche porre prima o poi, lo abbiamo detto più volte, per quello che riguarda i dipendenti dello Stato, e i magistrati sono dipendenti dello Stato, applichiamo lo stesso ragionamento, ci sarà un modo per valutare come lavora anche un magistrato, o è tabù dire questo, o si viene accusati di attaccare la magistratura, perché poi nella nostra classifica oggi una cosuccia su questo ce l'abbiamo, che non c'entra con questa indagine. Comunque abbiamo dato atto di chi è stato o archiviato o assolto, e perché è giusto fare così, e adesso partiamo però con la classifica. Torna in maniera prepotente al quinto posto, ma torna nella classifica una regione che mancava da un po' di tempo, e mi riferisco alla Sicilia. Allora, c'è Crocetta, il governatore, che è giustamente furibondo perché ha scoperto, tra virgolette, che su 15.000, dicesi 15.000 dipendenti della regione Sicilia, 6.000 non possono essere trasferiti, ma non da una città a un'altra, da un posto di lavoro, da un ufficio all'altro. Perché quasi la metà dei regionali è intoccabile, perché dentro vi sono 3.000 dipendenti che usufruiscono dei permessi della legge 104, o per disabilità o per assistere un familiare. Anche qui, più volte l'abbiamo detto, la legge 104 è una cosa serissima che va ad aiutare parzialmente chi già vive una tragedia. Sono dei veri bastardi quelli che la usano falsificando. Non si capisce, lo dico con massimo rispetto per i veri disabili o per chi ha un familiare da assistere, non si capisce come facciano essere nei dipendenti della regione Sicilia il 20% con la 104, vuol dire 1 su 5, è una cifra, è una percentuale che non ha paragoni nel resto d'Italia, ok? Allora, il sospetto che qualcuno faccia il furbo viene. Poi ce ne sono altri 3.000, per la precisione 3.000 in tutto, scusatemi, che sono dirigenti sindacali. Adesso, ma ci rendiamo conto che un dipendente ogni 5 fa il dirigente sindacale, quindi hanno il distacco e non possono essere trasferiti. Anzi, sono 2487 sindacalisti, 2487 sindacalisti. Abbiamo conquistato il sud con 1000 persone, no? Liberato il sud, alcuni dicono conquistato. Qua ci sono 2500 di sindacalisti solo dentro la regione, e poi ce ne sono altri 836 che hanno usufruito di permessi sindacali. Crocetta è furibondo, ha detto che qualcuno vuole fare il furbo, chi usufruisce da 104 non può essere trasferito da una città all'altra, ma può essere spostato da un assessorato all'altro, perché il problema che ha è che sta cercando di spostare su alcuni uffici che sono senza personale alcuni dipendenti, dipartimento formazione o attività produttive, non si muove nessuno. Questo in una regione, parlo di dipendenti pubblici, in cui per esempio nel comune di Milazzo hanno beccato 59 dipendenti i famosi scandali dei cartellini, le timbrature, e ci risiamo anche qui. Allora, tra novembre e dicembre, 5 telecamere beccano i dipendenti coi badge strisciati per conto di altri, allontanamenti per questioni personali. Ce ne sono due però che mi fanno quasi tenerezza. Uno è un dipendente che lungo tutto l'orario lavorativo si assentava per allenare la squadra di basket. E la cosa bella è che firmava da allenatore il referto della Federazione Italiana Pallacanestro per le partite. No. Un altro è un dipendente che era anche membro dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, cioè quello che deve dare sanzioni. Che faceva lui? Lui, stressato da troppi procedimenti disciplinari, andava a farsi fare i massaggi. I massaggi, non sappiamo se thailandesi o di quale genere. Comunque, 59 obblighi di firma, 16 indagati, truffa aggravata e quant'altro. La cosa interessante è che, nonostante questi scandali che raccontiamo, in Sicilia volete sapere quanti assenteisti sono stati puniti e licenziati? Nessuno praticamente, due in realtà, che non erano furbetti del cartellino, erano due impiegati che da un giorno all'altro hanno deciso di cambiare vita. Cioè due, non, tra l'altro non serve neanche una sentenza per giungere a provvedimenti disciplinari adesso. Tutti restano al loro posto. Quindi vale per tutto quello che abbiamo raccontato e anche, non so, vi ricordate l'inchiesta del Comune di Modica, l'Istituto Case Popolari di Messina, i Bellini di Catania, sono 300 indagati solo lì, tutti al loro posto. Andiamo al quarto posto, eccolo qua. Questo però voglio un po' di raccoglimento, perché ho difficoltà. Allora, siamo nel 2003. Il Molise, anzi era 2002 il terremoto e poi l'alluvione del 2003. Il Molise è in ginocchio per prima il terremoto e poi l'alluvione. Allora, che cosa si inventa l'ex governatore Michele Iorio per rilanciare un'economia in ginocchio colpita dal terremoto e dall'alluvione? Si inventa praticamente l'asso nella manica, è unico, è sviluppare dei collegamenti tra Molise e Croazia. Dice, ma che cavolo si è fumato? No, tra Molise e Croazia. Prende 8 milioni di finanziamenti pubblici previsti per rimediare i danni del sisma, ma mica va a sistemare il dissesto idrogeologico, a mettere in sicurezza le case. No, compra il Termolijet. Che cavolo è il Termolijet? È un catamarano che doveva offrire un collegamento quotidiano tra Molise e Croazia, che voglio dire, ma basta guardare una cartina, e intercettare, non sto scherzando, conquistare, lo ha annunciato a suo tempo lo stesso Iorio, vogliamo con questo corridoio balcanico riuscire a intercettare il mercato dei pellegrini diretti a Međugorje. Ma porca miseria, ma se uno deve andare a Međugorje, ho capito che è un pellegrino, sarà pure disperato, ma va ben tutto, ma cosa fa Molise, poi Molise, Croazia, per arrivare a Međugorje, tu lo intercetti dove non si capisce bene a che punto lo intercetti sto pellegrino. Comunque compra il Termolijet e nel 2010 con fierezza mostra questo boglio da 8 milioni di euro all'ambasciatore croato Vidošević, che si sarà chiesto ma dove sono finito, e dice questa è la, cito testualmente, la concretizzazione di un preciso progetto teso ad allacciare stabilmente rapporti tra il Molise e l'altra sponda dell'Adriatico al fine di sviluppare un fruttuoso rapporto commerciale, turistico e culturale. Ora, capite perché io leverei alle regioni tutto quello che ha a che fare con turismo, in promozione da sempre. Ecco, io avrei voluto vedere la faccia di Vidošević, che si sarebbe avuto una schnappa a quel punto. Comunque, che ne è del jet d'oro? Salpa, per la prima volta nel 2004. Dopodiché salpa una volta è finita lì, perché nonostante vadano a ribasso sui prezzi, stranamente, nonostante le ricerche di mercato che immagino che lo staff dell'ex governatore Michele Iorio avrà fatto, perché prima di fare 8 milioni di spesa un privato vuole vedere se c'è mercato, quanti sono. Io poi non ho capito una cosa, ma erano i molisani a dover andare in Croazia o i croati a venire in Molise? Non ho capito dove fosse il flusso. Comunque non ci va nessuno, quindi continuano a abbassare. Ah, tra l'altro la cosa viene appaltata non con gara pubblica, ma assegnata direttamente a una società privata, perché deve partire subito questo Termolijet, e quindi si va subito sul privato. 8 milioni di euro. Allora, niente da fare, continuano a offrire offerte sempre più low cost, nessuno vuole montare, neanche quelli che devono andare a Međugorje, neanche i molisani che vogliono andare a Međugorje vogliono prendere il Termolijet. E quindi, ma guardate che è tutto vero. E quindi praticamente poi ci sono problemi di carattere burocratico amministrativo, perché finisce in tribunale l'assegnazione privata, poi però viene assolto, non ci fu danno erariale, il catamarano viene messo all'asta perché non serve più e viene al mestrato. La cosa triste, vorrei un momento di raccoglimento per questo catamarano, perché l'ha messo all'asta a giugno con un prezzo di partenza di 2.216.000 euro, furono pagati 8 milioni di euro nel 2004. e nessuno l'ha voluto. L'hanno rimesso all'asta una seconda volta giovedì il 29 settembre, base d'asta 1.883.000 euro, di nuovo deserto. Allora, è da 10 anni che tra l'altro pesa sulle casse regionali perché devono mantenerlo, per cui allora io faccio un appello: chi è disposto ad adottare un catamarano, poi gli cambiamo il nome, Termoli Jet, è bello, è praticamente nuovo, è un usato sicuro, perché ha due giri, ecco, può presentarsi alla regione Molise, perché penso che 1.800.000 scenderà anche sotto il milione. Per favore, salvate il Termoli Jet. Andiamo sul traffico, che è meglio. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con la classifica. Basta col Termoli Jet, non vi dico. Qualcuno suggerisce che allora per intercettare il traffico dei turisti verso Lourdes potevano fare un collegamento Molise-Nizza. Magari utilizzate il Termoli Jet. Qualcun altro mi dice che porta sfiga cambiare il nome alle navi. Va bene, andiamo al terzo posto. Qui vado veloce perché in realtà mi aiuta Oscar Giannino. Parlo delle Ferrovie Nord, ce ne siamo occupati decine di volte, anche perché l'ultima vicenda, l'ultimo scandalo, ricordate le Ferrovie Nord, per cui le Ferrovie Nord delle, sono quelle della Lombardia. Allora, per quello che riguarda le Ferrovie Nord, oggi c'è una vicenda singolare. Perché? Perché mentre scopriamo che uno degli arrestati nell'inchiesta sugli appalti pubblici in Lombardia, Davide Lonardoni, è responsabile dei servizi di ingegneria della Nord, Nord Inc., società di Ferrovie Nord, è figlio di Dario Lonardoni, ovvero di chi fino a 3 anni fa e per ben 10 anni era direttore generale di Ferrovie Nord. L'assunzione del figlio, spiegano le fonti interne dell'azienda, è avvenuta quando papà era già in pensione. Ma attenzione, per quello che riguarda Ferrovie Nord, già prima della sua assunzione, Lonardoni il figlio aveva avuto alcune consulenze controfirmate da Lonardoni padre. Beh, bellissimo questo. E abbiamo raccontato delle inchieste. No, ma perché lo dico? Perché la cosa che mi manda in bestia, come la settimana scorsa la vicenda della Will, è che, e del primario di Vicenza, è che Andrea Franzoso, l'ex funzionario dell'audit di Ferrovie Nord, che ha scoperchiato lo sperpero del denaro da parte dei vertici della società, ok, che è guidata dal leghista Andrea Gibelli, è stato isolato, ha cambiato ruolo e da qualche giorno si è dimesso. Questa è la selezione al contrario che riusciamo a fare. Sentite la sua, di quello che ha dichiarato mercoledì scorso con Oscar Giannino durante la versione di Oscar. Io nello svolgimento del mio incarico ho fatto ciò per cui ero pagato, nulla di straordinario, semplicemente ho segnalato queste criticità, le ho segnalate anzitutto internamente all'azienda, dove la cosa non è stata accolta favorevolmente. L'allora presidente del collegio sindacale chiese a me e ai miei colleghi di riscrivere il report in maniera più soft, evitando di allegare appunto una serie di allegati in cui riportavamo le diverse voci di spesa anomale. Io vengo isolato, vengo esautorato da tutti i miei incarichi che sono affidati a dei consulenti esterni. Trascorro le giornate nella più completa inattività, quindi formalmente io mantenevo i miei incarichi ed è quello che tra l'altro mi rispondevano anche i miei superiori, perché quando io chiedevo loro non ho lavoro, segnalavo di non aver lavoro, mi veniva risposto formalmente tu ancora stai occupandoti di questo, anche se la società sta pensando a ricollocarti in una diversa posizione aziendale. La cosa strana è che nell'attesa di questa riorganizzazione aziendale l'unico dipendente che si trovava senza lavoro ero io. Allora, ci sono tanti modi, come insegna, non dico che sia un atteggiamento mafioso, ma come insegna la mafia, ci sono tanti modi per isolare una persona. E a me sembra che quello che racconta Franzoso sia gravissimo. Cioè lui faceva l'audit di Ferrovie Nord, cioè doveva andare a controllare quello che capitava. Scoperchia un calderone, viene isolato. Guardate che quello che ha raccontato è di una semplicità devastante. Cioè non ti danno nulla da fare, ti fanno capire che intanto ti spostano e tu resti lì. Se n'è dovuto andare. Gibelli. Guardate che lo schifo che abbiamo raccontato in questi anni delle Ferrovie Nord riguardava anche il ruolo della Lega sulle Ferrovie Nord. Volete dire qualcosa su questo? Volete garantire che le Ferrovie Nord non saranno più, diciamo, la schifezza, perché abbiamo raccontato di tutto su queste Ferrovie Nord? No, l'unica cosa è mandare via Franzoso. Guarda, vi do un applauso in anteprima perché mi fa così girare le scatole questa cosa. Bravi, bravi vertici delle Ferrovie Nord. andiamo al secondo posto, andiamo, perché se no mi arrabbio e non mi diverto più, c'è poco da divertirsi qua, ma andiamo al secondo posto e la potremo chiamare Piovono Pietre. Piovono Pietre, secondo voi quante posature della prima pietra si possono fare? Una, e si chiama prima pietra? No, l'Italia è un paese fantastico, perché a Felettino, in provincia di La Spezia, hanno posato per la prima volta la prima pietra, poi c'è la seconda volta della prima pietra, poi c'è la terza volta della prima pietra, poi ci sarà la prima pietra bis. Cavolo, succede. Allora, succede che nel 2014 devono fare un ospedale a Felettino, c'è quello vecchio da demolire, il sanatorio per tubercolosi edificato nel ventennio. E allora nel 2014 fanno la scena della posatura della prima pietra. Si era cominciato a tirare sul bunker della radioterapia. Cosa succede? Arrivano così tanti partecipanti dalla regione, dal comune, dalla ASL, che non si riusciva nemmeno a fare la foto della posatura della prima pietra, perché non ci stavano tutti dentro, non sto scherzando, una marea di amministratori, tutta la Liguria riunita. Bene, dice, posa la prima pietra, arriverà la seconda. No, hanno riposato la prima pietra, hanno riposato la prima pietra qualche giorno fa. Anzi, ci sarà, scusatemi, c'è un errore, ci sarà fra pochi giorni la posatura della prima pietra. Perché? Cosa è successo nel frattempo? Il 15 ottobre 2004 l'appalto viene affidato alla Bonatti di Parma, 83 milioni di euro, di cui 40 milioni pubblici, il resto privato. Dopo però viene tutto bloccato perché c'era un giurato illegittimo, il tribunale annulla tutto. Allora viene detto che viene fatto un nuovo ospedale a Sant'Andrea, un monoblocco. No, poi si ripiega di nuovo sul Felettino, ma questa volta con soldi pubblici. Fra la prima pietra verrà posta, attenzione, adesso mettiamo la prima pietra. A quel punto nel maggio 2015 viene ufficializzato il nuovo appalto dei lavori alla Pessina, con l'annuncio della consegna dei lavori entro l'anno e 4 anni di interventi, il primo dei quali per demolire il Felettino vecchio. Fine dei lavori 2019. Oh, siamo quasi al 2017, si attende ancora la demolizione del vecchio ospedale, che tra l'altro ha un reparto costruito fra il 98 e il 2008, all'ultimo piano è nato inagibile, quindi mai inaugurato, uno schifo nello schifo. E a questo punto, da quando verrà posata la prima pietra a levare il vecchio ospedale, si fa un calcolo che a questo punto ne riparleremo verso il 2020. Poi conteremo quante prime pietre vengono posate da qua al 2020. Guarda che a forza di posare prime pietre, magari lo fanno veramente l'ospedale. Cioè, tutto fatto di prime pietre. Visto mai? Oh là! E adesso manca il primo posto, però io ho quasi finito il tempo della prima ora e vado dopo. Il primo posto è bellissimo, perché dentro, ahimè, c'è tutta la fotografia di questo paese. Dirigenti incapaci premiati, magistrati incapaci o procure incapaci e anche ministri incapaci. Non vi perdete il trittico delle incapacità. Tra pochi minuti di nuovo in diretta c'è il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, e la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Meno 0,50% la chiusura di Milano, assolutamente in linea con quella del resto d'Europa. Poi ne parliamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. And the winner is... Oh, il vincitore della nostra classifica chi è? Beh, insomma, possiamo dire che è l'intero paese? O meglio, diciamo, la parte della pubblica amministrazione, perché qui questo è un trittico. Allora, sentite questa. Secondo voi chi manda Roma, inteso come governo, a Bruxelles a rappresentare e a promuovere gli interessi del nostro paese? Soprattutto se parliamo di sicurezza alimentare, visto che abbiamo il Made in Italy, l'agroalimentare, la salute veterinaria, i farmaci, manderà il migliore, no? E infatti il migliore si chiama Pasqualino Rossi. È stato incaricato a inizio anno dal ministro Lorenzin di occuparsi della nostra sicurezza alimentare, dei farmaci e della salute veterinaria. A Bruxelles la nomina è stata suggerita da una commissione interna suggerita da questa commissione alla ministra Lorenzin, che ha dato l'approvazione. E dice, vabbè, che notizia è? Eh no, bisogna capire chi è Pasqualino Rossi. Pasqualino Rossi, assunto nel 98 dal Ministero della Salute come direttore medico, si occupa da allora di farmaco vigilanza e diventa un importantissimo dirigente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Nel 2008, proprio per il suo ruolo, dopo 2 anni di indagine, viene arrestato dal procuratore di Torino Raffaele Guariniello, insieme ad altri funzionari pubblici e dirigenti di società di intermediazione nel settore farmaceutico. Qual è l'accusa? Corruzione. Nelle 400 pagine che spiegano il provvedimento d'arresto, il GIP di Torino scrive: da quanto emerso si registra una totale assenza nel Rossi dell'interesse per la tutela della salute pubblica. Perfetto. Lui, infatti, per conto dell'AIFA si occupava delle procedure di valutazione e autorizzazione dei farmaci presso l'Agenzia del Farmaco Internazionale. Non è un dettaglio questo, eh? La procura piemontese è andata a intercettare e ha pedinato il dirigente per mesi. Praticamente è uscito un ritratto di un dirigente che era alla continua ricerca di soldi per mantenere un tenore di vita che i magistrati definiscono al di sopra delle sue possibilità. Per questo passa informazioni riservate agli informatori farmaceutici, agevola le pratiche per l'approvazione dei farmaci in commercio e in cambio ottiene regali e denaro. Per esempio, Matteo Mantovani, rappresentante della Segena, società di consulenza per le aziende farmaceutiche alimentari e veterinari, gli regala una vacanza in un lussuoso resort per tutta la famiglia, oltre ai mobili del nuovo appartamento. Generoso. A lui si rivolge anche Riccardo Braglia, amministratore della Helsin Healthcare, il gruppo farmaceutico è svizzero, che produce l'animinsulide, quindi il principio attivo dell'Aulin. Il farmaco, qualcuno se lo ricorderà, fu sospeso in Irlanda per i danni al fegato, rischiava in Italia il ritiro dal commercio. L'Aulin si salva e, secondo i magistrati, Braglia ringrazia Pasqualino Rossi con una bustarella nascosta dentro un giornale. Il passaggio della bustarella è immortalato da un video dei NAS. La difesa dei Rossi è interessante perché dice: pensavo questi regali fossero delle banalità, non ho mai fatto cose contrarie ai doveri d'ufficio. No, ma infatti tutti noi riceviamo mobili per la casa e vacanze per la famiglia, e quando mai? Che cosa succede? L'iter giudiziario è lentissimo e accidentato. Quindi abbiamo primo protagonista del trittico, il funzionario corrotto. Secondo protagonista, l'efficienza della nostra magistratura, se se ne può parlare. Perché la Procura di Torino trasferisce gli atti a quella di Roma nel 2008 per competenza. Il rinvio a giudizio per Pasqualino Rossi e altri 16 imputati arriva nel settembre 2010. Nel frattempo Rossi è stato trasferito dall'AIFA al Ministero della Salute con incarico di consulenza, studio e ricerca. Deve valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito della cooperazione sanitaria e della salute globale, the best practice, sì. Allora, è lo stesso settore guidato fino a 2 settimane fa da Daniela Rodrigo, quella che si è rimessa per la pubblicità sulla Fertility Day. Comunque, allontanata da Lorenzin. A settembre 2015 il Tribunale di Roma non arriva al giudizio di primo grado, questo mi fa imbufalire, perché emette sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati. Prescrizione che arriva, e i giudici lo scrivono, a contribuire alla dilatazione dei tempi del processo c'è la trascrizione delle telefonate che è avvenuta con notevole ritardo, posto che la Procura di Roma non rinveniva i video e le intercettazioni trasmesse dalla Procura di Torino. Ma porca miseria, qui o la Procura di Roma o la Procura di Torino non sanno lavorare, perché come fai a non trovare i video e le intercettazioni? O non telefona, scusa, dove me le hai messe? In quale cartella? No, non le trovano, e quindi il processo va in prescrizione. E qui ci vorrebbe anche una responsabilità dei magistrati sull'inefficienza, se un processo va in prescrizione perché non sono riusciti due procure a parlarsi e a trovare i file, i video e le intercettazioni. Vabbè, quindi Pasqualino Rossi gode e va avanti fino al 2015, quando insieme a 4 dirigenti risponde al bando per la rappresentanza. La scelta ricade su di lui perché uomo d'esperienza, ed è credo, che sa l'inglese. La ministra Lorenzin e i suoi direttori generali dopo hanno dichiarato che al momento della scelta, di mandarlo a Bruxelles non conoscevano la sua storia. E questo è il terzo aspetto. Ma come fai a mandare a Bruxelles uno di cui manca? Ma vai su Google, no? Fai come abbiamo fatto noi, Pasqualino Rossi, ti uscirà qualcosa. Ministro Lorenzin, allora, visto che ce l'ho, diciamo, in questo momento la sto appellando, oltre al Fertility Day, controlliamo su Google chi mandiamo a Bruxelles, e visto che ci sono, possiamo fare una bella circolare obbligando gli ospedali, e mi riallaccio a un tema che non voglio trattare, ad avere un'area per i malati terminali? Possiamo fare una circolare in tal senso? Non me ne frega nulla. Fatela e trovate uno spazio per i malati terminali, con quello che è successo alla persona che è rimasta 48 ore a morire con tutti che gli passavano davanti a Roma. Comunque, non voglio entrare su questo. Un applauso a Pasqualino Rossi, numero 1, il Ministero della Lorenzin, numero 2, e la Procura di Roma o di Torino, numero 3, perché una delle due ha una cavolata, e non voglio usare altre parole, l'ha stabilita. Bene, bravi, primo posto. Monica Archibugi, numero uno e fondatrice di Le Cicogne, buonasera. Buonasera, buonasera. Io pensavo che le cicogne non esistessero. Che cosa sono le cicogne? Cioè allora, che non esistessero cicogne... quelle che portano i bambini, non le cicogne. No, esistiamo e come, perché noi portiamo i bambini, però non volando ma con la macchina, è un nostro servizio particolare. Allora, Le Cicogne in particolare è un'app. È un'app. Un'app per il telefono che aiuta i genitori a trovare la babysitter della porta accanto. Quindi diciamo che siamo diventate famose appunto per il servizio che noi chiamiamo baby taxi. Quindi essenzialmente, come avevamo detto, le cicogne non portano i bambini nel nostro caso, ma li accompagnano. E quindi questo è un servizio che ci ha reso famose nel tempo. Siamo partite da Roma e ad oggi siamo invece in tutte le province italiane. E grazie all'app il genitore si può semplicemente registrare in pochi istanti, fare la sua ricerca e dopo pochi minuti avere le prime candidate di cui potrà visualizzare. Ma cosa sceglie il genitore? Babysitter, per esempio? Dunque, babysitter, aiuto compiti, accompagnamento in auto, alle attività sportive, alle feste. Aiuto compiti mi servirebbe. È attivo anche a Milano? No? Sì, assolutamente sì. Roma e Milano insieme per noi sono il 65% del mercato, ovviamente. Senta, e voi quanto ci guadagnate sulla cosa? Noi siamo riusciti finalmente, diciamo, ad entrare all'interno del rapporto lavorativo tra il genitore e la babysitter. Il rapporto di lavoro è comunque esclusivo tra il genitore e la babysitter, quindi il genitore è il datore di lavoro e la babysitter è il lavoratore. Noi diamo un servizio extra che è appunto l'app, che quando la babysitter va a lavorare fa check-in e check-out, ovvero sto iniziando a lavorare, ho finito di lavorare. Questo permette alla babysitter e al genitore di avere un conteggio esatto al secondo delle ore, insomma, di lavoro e quindi anche del compenso. Quanti... che è collegato alla carta di credito. Quanti siete, quanto avete fatturato l'anno scorso e chi vi ha dato i soldi? Allora, noi siamo un team di 8 persone e nel 2015 abbiamo fatturato circa 60.000 euro e abbiamo, però questi non sono, diciamo, non ci permettono di rimanere in vita come azienda. Noi siamo una startup e abbiamo iniziato il nostro percorso grazie a dei venture capital, ovvero dei fondi di investimento privati che negli anni, dall'anno della nostra costituzione del 2013, quasi ogni anno siamo riusciti a chiudere un round di investimento, si chiama, che ci ha permesso di crescere e di mandare ovviamente avanti la società prima di arrivare a break even. Quindi è il Venture Group vi ha dato i soldi? Il primissimo sì, è il Venture Group a Roma, che per di più è il fondo di investimento privato che è dietro l'acceleratore di impresa romano Luis & Labs, dove noi abbiamo passato i nostri primi 2 anni e di questi 2 anni 6 mesi sono stati un percorso di accelerazione che ci ha appunto aiutato, diciamo, a diventare più imprenditori rispetto a quello che eravamo all'inizio. Sì, infatti servono a questo gli incubatori, esatto. Gli acceleratori. Volete espandervi dove? In Italia? Fuori dall'Italia? Beh, oramai l'Italia posso dire che l'abbiamo raggiunta tutta, perché abbiamo preso appunto da recentemente, abbiamo raggiunto tutte le province italiane e il prossimo anno, nel 2017, un paese europeo, una città di un paese europeo. Stiamo effettuando proprio in queste settimane la valutazione su quale città, se Madrid, Berlino o Parigi, diciamo che più o meno ci siamo orientate su questi paesi perché a livello culturale e anche di competizione sono similari all'Italia. Oh, in bocca al lupo a lei, siete tutte donne o anche qualche uomo? No, chiedo, non è che... Due ragazzi, sì. Due ragazzi che... Nel nostro caso la discriminazione è al contrario, no, scherzo, vabbè. Non c'è... No, li ha descritti come due vittime, ma non mi interessa. Mi interessa che voi continuate a lavorare e che l'attività si sviluppi, che andiate avanti. In bocca al lupo a lei, agli altri 7... collaboratori del sito Le Cicogne. Per carità, vedo i messaggi, il fatturato deve crescere, ovvio, però insomma intanto si sono rimboccate le maniche. Cosa volete? Abbiamo appena parlato di Pasqualino Rossi, preferite Pasqualino Rossi? Meglio Le Cicogne. Meglio Le Cicogne, in bocca al lupo appunto a Monica Archibugi. Allora, a chi mi... c'è uno che mi sta insultando perché dice che sono un rinnegato veneto e non mi sono ricordato che oggi è l'anniversario della battaglia di Lepanto. Ma adesso io capisco tutto, ma... Marco Antonio Bragadin, vendicato, Sebastiano Venier, mi sta pure simpatico per il nome, no? Colonna, cosa vuoi parlare? La battaglia di Lepanto? Se no lei avrebbe avuto il turbante adesso. Invece uno che mi scrive parla di piccole cose, buchi di decine di milioni, mentre non parlate mai di macroeconomia, il danno che stanno facendo le banche centrali. Guarda, ne parliamo adesso, abbiamo un minuto di pazienza. Traffico 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. I wanna be free. Allora andiamo appunto, come chiede l'ascoltatore, ai temi della macroeconomia, Fondo Monetario di Washington, la giornata di borsa l'ho commentata in apertura, adesso insomma, c'è poca roba, meno 0,50% Milano come le altre borse, meno 0,6 Parigi, meno 0,7 Francoforte, meno 0,5 in questo momento il Dow Jones, più 0,6 Londra, UBI Banca più 1,80, ST Microelectronics più 1,40, Monte dei Paschi più 1,20, Unipol più 1, Mediaset invece meno 2,20 come Fineco Bank, Moncler. Il 2% lo perde Snam e Campari. Il calo dell'1,90 è quello di Ferragamo, dell'1,60 di Buzzi Unicem e di Terna, ma anche Saipem e Jux Net-a-Porter, Enel 1,5% di flessione. Oh, andiamo a Washington, dove si parla molto dei paesi che possono aiutare la ripresa. Ieri Christine Lagarde ha citato Germania, Canada e Sud Corea tra i paesi che possono aiutare la ripresa. Ha detto azione, agite per favore. E oggi Draghi dice che la politica monetaria sta rafforzando la ripresa dell'area euro, mentre Schäuble, il falco tedesco, ministro delle finanze, è in viaggio simpatia, forse perché a Deutsche Bank... sul groppone, e ha fatto un elogio ieri alla CNN enorme dell'Europa, di quanto la Germania sia grata all'Europa. Non so se valga anche l'opposto in questo momento. Alessandro Merli in collegamento da Washington, buonasera. Sì, buonasera. E grazie anche a Franco Bruni, che prende adesso, poi lo riprenderemo anche la prossima settimana, docente di economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano. Buonasera professor Bruni. Buonasera. Allora Alessandro, insomma, tra Schäuble che elogia l'Europa e sembra molto più morbido del solito, la Lagarde che chiede alla Germania di intervenire, Draghi che rivendica il ruolo della Banca Centrale Europea, sono tutti buoni, tutti amici di tutti, tutti si vogliono bene? Ma non direi. Schäuble intanto è sempre stato un grande europeista, quindi diciamo questa non è una scoperta. Diciamo che anche sul fondo monetario, quando dice le cose che gli vanno bene, lui allora lo elogia. Se invece come quando il Fondo Monetario dice che Deutsche Bank è una banca che deve cambiare modello di business e deve ristrutturare, allora Schäuble dice che il Fondo Monetario non si deve impicciare degli affari delle banche perché non è il suo compito. Quindi diciamo che insomma Schäuble, Schäuble è l'italiana, aperta dalla parte che gli fa più, che gli fa più comodo. Para Schäuble. Vabbè, detto questo però c'è un clima un po' diverso, diciamo, di tentativo di cooperare oppure no? Abbiamo visto, abbiamo letto diverse interpretazioni anche di, insomma, di paesi tutti un po' preoccupati dalla piega che sta prendendo l'economia. Ma la cooperazione è molto a parole, come è stato al G20 in Cina e come in questi giorni. Come sappiamo, la politica monetaria ha un po' raggiunto i limiti dei suoi interventi, più di tanto non può fare. Draghi oggi ha ripetuto che la BCE continuerà con il suo programma di acquisti titoli fino a marzo se necessario anche oltre, questo contraddicendo le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi di una riduzione dello stimolo monetario che avevano molto alterato i mercati. Però insomma l'azione di cui dicevi deve venire soprattutto dalla politica fiscale. Lì qualcosa obiettivamente in Germania si sta muovendo, hanno promesso questi tagli di imposte, però lo stesso Fondo Monetario ha detto che insomma questo non è certamente sufficiente, e per il resto si batte come sempre sul tasto delle riforme strutturali. Ce n'è una lista infinita, filata addirittura già due anni fa a Brisbane dal G20. La maggior parte di questi impegni non sono stati mantenuti. Ecco, professor Bruni, quello che sta raccontando Alessandro Melli è appunto un fondo monetario, sì, insomma, un G20, scusatemi, che dice una cosa, ne fa un'altra, insomma, bisogna non illudersi dalle dichiarazioni. Però io notavo in questi giorni che varie dichiarazioni, il Mr. Doom, Rubini, quell'Uriel che anticipò la crisi nel 2008, dice attenzione, qua ci sono tutte le premesse per lo scoppio, molta liquidità per lo scoppio di un'altra bolla. Anche Taleb, che è l'autore del Cigno Nero, dice vedo di nuovo la possibilità di un'altra tempesta perfetta. Ma insomma, al di là di quelli che qualcuno chiamerebbe gufi, ma lei è preoccupato per un incancrenirsi, diciamo, di varie situazioni? L'Europa che non riesce a ripartire con i populismi che minacciano i governi, le banche centrali che dovranno rialzare i tassi, soprattutto quella americana, un'economia mondiale che rallenta, oppure sono esagerazioni? No, sono preoccupatissimo e vedo che le cose peggiorano. Spero che si raggiunga abbastanza presto il punto di rimbalzo. Se posso condividere con i suoi ascoltatori una cosa che ho appena saputo un quarto d'ora fa, il governo inglese, che ha chiesto alla London School of Economics, sì, lo raccontavamo, certo. Ah, l'ha già raccontato? No, ma lo ridica. No, ha dato alla London School of Economics l'incarico di aiutarlo con consulenza, diciamo, da vari punti di vista per gestire il problema di Brexit, e ha fatto sapere oggi che non desidera che non ci siano però contributi di economisti stranieri, perché questo è pericoloso per la sicurezza. Ecco, siamo arrivati a questi punti e credo che sono simbolici e significativi di una situazione che se va avanti così il mondo ci scoppia in mano. Quindi io la riavrò ospite lunedì, però mi dica in un minuto, ci scoppia in mano perché c'è il rischio bolla, come dicono alcuni economisti, cioè la liquidità che non viene riassorbita, è un'economia che non sta ripartendo per riassorbirla. Non riparte l'economia se ci sono questi fenomeni di chiusura, se il mondo si chiude non riparte, e non riparte nelle aspettative dei grandi investitori, e quindi a un certo punto la cosa si avvita e può scoppiare, anche per ragioni finanziarie strettamente, ma diciamo che la bolla è come benzina, cioè ci vuole un fiammifero, il fiammifero può essere fatto da follie di natura extraeconomica che sono molto pericolose. Ma che cosa dovrebbe accadere perché si evitasse questo rischio, Bruni? Che a Washington si mettano una mano sulla coscienza e cerchino di, come diceva lei, di smettere di litigare. Forse se smettiamo anche noi in casa nostra di litigare possiamo dare una mano. In casa europea, dice, o in casa italiana? In casa italiana, vogliamo dire, in casa italiana, in casa romana. Possiamo restringere, insomma, ma anche il ring, ma veramente bisogna capire che il mondo più complicato è, più bisogna andare d'accordo per governarlo. Allora, su questo torneremo. Nel ringraziare intanto Alessandro Merli, ridò appuntamento lunedì al professor Franco Bruni, perché adesso, a parte le battute, insomma, i segnali che stanno arrivando, io non è che per me, lo dico, che mi scrive né Rubini né Taleb sono dei, non è la Bibbia, dico solo che insomma chi sta scrivendo, attenzione, e ho letto anch'io altre analisi sul rischio di stagnazione secolare, però insomma iniziano ad esserci un po' tante preoccupazioni sul rischio bolla, quindi ne parliamo lunedì. Intanto ringrazio come sempre Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, oggi Filippo Aureggi per l'assistenza in regia, e auguro a tutti voi un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.